pronti per la partenza. Gufo! Marina! E il tagliere! E il gufo lupo non c'è! Cos'è? Gufo Flipper! Non l'ho sentito a nessuno! È sempre acceso qua, mi sto guardando la televisione, ma non c'è nessuno! Anche qui è acceso, ma mi sto guardando la televisione! Io mi sto guardando un film a Rai 1, un film di un cane speciale là. Ehi, c'ho Bipi! Luca, Luca, a chi sei? Ehi! Oh, non lo sento più. Ma forse sarà il giro, isso. No, Luca, mi pare che abbia parlato. Allora ad Alghero là, a pigliarsi un poco di fresco. Sì, ma dico, non ti chiedo un freddo a rimanere alla vera, finito tutti giù in canna. Allora l'ho fatto vedere alle 3, alle 2 e mezzo, e a telegiornale Rai 3. L'hanno fatto vedere, anche a Piazza Italia hanno fatto vedere, a Alghero, a Castelsardo, a Olbia, tutti hanno fatto vedere. Oi. Zampone, mamma mia, a me non mi piace il zampone, l'abbiamo sempre regalato, a che a me a lui lo si piace. Ah, mi ascoltate, si lo emo. Ehi, papà, ma per tradizione mi manca a me, per tradizione. Buonasera Graziano, buonasera Gian Maria. Chi c'è? Ma chi c'è? Boh, non lo sento. Tutta, avanti Graziano. Non lo sento Bacchisio. Secondo l'ho permesso, se dietro non mi sento. Bacchisio ha sempre il problema con l'antenna. Mi lasciano molto picco e i fasciani sul palazzo, a Baranzi. Se no non passa i roghi, Graziano. Presto ero molto picco! Non lo sento, cosa vuol dire? Non lo sento! Sento gli altri, ma lui non lo sento! Boh! Tragitto, devi passare il subalazzo, ma per passare i roghi! No, se... Con questa antenna no, ma se vado su, se vado dove c'è la stazione, su, con l'altra antenna mi ascoltavi sempre, anche se eri sotto al letto. Adesso in un passaggio ho sentito un grido, ma chi? Ma io ho passato, mi sono andato, sono andato a fondo a scala. Evidentemente, è il problema della tenda, secondo me. Se sale giù con quell'altra antenna che già su si sente, perché adesso è giù, tu sei dietro, poi. Io sono dietro, perché dall'altra parte c'è freddo, così che qua mi c'ho la suppetta accesa e c'è i piedi caldi caldi, non mi sposto, Atto, qua si sta bene. Sì, lì stai bene. Capisci bene dov'è? E non mi sente. Col gommino non mi sente nulla. Se io vado col gommino non mi sente lo stesso. Sì, ya vai, grazie, siamo qua. Chi è che bussa? Avanti il pirivacchio. E lo cagufo lo è andato a finire. Ma te, Gianmarì? Attento, gufo. Buca. Attento, gufo. Attento, gufo. A casa sei tornata. E lu, è vero. Che è Mari? E io. Allora, peso 81 e 2 e via slip. Bene fa. E allegra zini. Allegra ancora. E allegra zini. Ho peso. Vai come te, però tu prima ho preso i 120. 120 se ne devi ne dare, di carità, senza arresti domiciliari. Ma te devi dire che la fatti solo i favori. Vai, 90 da carità e un resto in prigione. Giù Maria, ai. E c'è la carità che la fatti, i e non vuoi ancora fatti, ma anche se mi paghi. Capito, uffo! Mandagli un messaggio, lui, dite di entrare. E lui? Ce l'avrà acceso ormai. Sono chiuso insieme. Attento, civetta! Attento, civetta! Attento, Giumarina! Ci viene a mettermi la crema, Lu, nella schiena. Lu, ci viene a mettermi la crema nella schiena, nelle gambe. Oh, Lu! Cazzo! Cazzo! Vabbè. Io mi stavo rincrimata. Adesso sono andato in bagno, non ti risucchi, cioè. Io sono troppo grasso, se non mi risucatessi, tu sei grasso molle. Ma bello. Grasso ma piaccio. Grasso della piaggio, è puro. È puro della girena, non so della piaggio. E giù. Ma dato di dare il messaggio al gufo. Attento gufo, ma insomma vuoi entrare stasera? E lu! C'è questo qua che arriva tutto fischiato, mi apre lo squelci. Sì, dei bambini ci sono. Bambini gente grande? No, bambini. Io non li sento. Ma sento a te. Cagato ti sei. Cagoni, chi sei? E te lo gufo! E tu che la rubochini hai visto? Oh che la rubochini! Ma se lo e te detto, Luca Cogena. E te sto coccomero. E io. E te sto coccomero. Mi lo vedi. A come? E te Luca. Luca Gufo. E io. Agu, quelli hanno tagliato le ali. Oh, e chi? Che non si sente. Sì, secondo me è venuto il suo mese. Come le donne oggi, gufo. Io. Attento, giù Maria. Si sta male il guè. Mi sono dimenticato, un rubinetto dell'acqua calda aperto. Si è scaricato lo scaldabagno. Prendi, mi sono avanti. Voleva fredda. No, oh, adesso l'ho già fatta. Perché non l'ho chiuso bene. Ehi, mi va manco un'oretta ai casetti, ah va. E va. Sono da bagno da 80 litri a voi, ehi. Ehi, questo qua, 59, facendo sculture sul legno. Bravi veramente, madonna. Sì. Ma non è che gruppo si è fatto. Bro. Attento, grazie allo gufo! Farò bene! Aiuto! Il bollettino l'ho pagato, l'ho compilato. Il 12 euro quando a Cagliari. Tu Giovanni pagando lo stai, sì. Picchia, ta ugria! Beh, adesso l'avevo compilato. Fino a 31 c'è tempo, Sì, vabbè, pagato, mi devo quella mezza di piedi. Sì. Ma non l'ho compilato ancora, devo compilare. No, devo compilare. Bisogna vedere un po' qua per fatto il TMR, boh. Bisogna informarsi. Sì, c'è da pagare, bisogna pagarlo, Perché, cazzo, ha una così più tranquillo, Se non ripaga, se te non ripaga, fatti coppo. Ognuno fa quello che vuole. Io lo pago. Io non parli, Non parli. Io l'ho pagato sempre. Sempre il 5, il 6. Ma di che anno? Paga o tu? Per fare la casa conservata. Come c'è la licenza da sconto lì. C'è l'altro fuglio. Tutti lì sono. Intatti, macu. Ah, sì, ciao, vai. Beh, si vuole un controllo, si trampa. Comunque ho fatto decisione, non si è pagato, perché ha avuto quei problemi. E sono venuti un paio di volte a controllarmi, La prima cosa che mi avevo chiesto, il bollettino se l'avevo pagato. Pronti? Eccolo qua. È giusto che si paghi, allora. Stai usufruendo di un servizio. Perché la multa è da 2.000 ai 4.000 euro. E va, una cosa penale. Senti, se ne svegliano, ruba l'acchino, la buri. Mi dico, ma 4.000 euro, ma non ci passo proprio, ma 4.000 euro me li mangio io, non vi raggio, ma... E poi, come ha detto Gio Maria prima, ognuno fa quello che gli pare piace, però Gio Maria... Eia, quello dico io. No, vabbè, io ho avuto sempre problemi, Gio Maria, tu lo sai, no? Non mi tagliamo il capo. E allora, ma me l'ho sempre pagato dall'inizio, io ho la concessione del 1992 mi sa, 94, non mi ricordo. Io ve l'ho aggiunto, ragazzo, da quando hanno fatto la concessione, io ho sempre pagato e ce li ho tutti conservati. Mi ho una faccia, quindi, avete già due, mamma mia, che niente manco, è un bel raggio, un bel, ho pagato sempre. Sì, vabbè, non sono venuti, non l'ho detto, vabbè, che la multa, vabbè, è lire all'epoca, non sono venuti a controllare a me, pensando in lire, infatti... Quando sono venuti, tu pensa, non sono manco accorto, io stavo usando un Saturneco e c'avevo anche l'M300 attaccato, no? E l'ho messo a zero, le cose dell'Ecco, però non ho fatto le prove, infatti non risultava nessun disturbo. Ho detto, ma non è che c'avevo anche il lineare, non c'avevo nulla. però dalla radio non mi hanno detto niente. È stato un eco di Cosola, di... Subettino, come si chiamava? Trucchetti, di nominativo. Ma che ci fa? Per colpa faccio controllo, prima ci avesse qualche denuncia, sennò no, cazzo. E chi ti cerca? Capito? Chi ti cerca? L'importante è usare i dovuti modi l'apparecchio, capito? Sì, certo. Certo, se non fai danno a nessuno, cioè non disturbi a nessuno, vabbè. Se mi stai disturbando a qualcuno, allora la musica cambia. È così. Vabbè. Comunque io da quando l'ho messo il digitale terrestre non ho più disturbato. Poi vabbè. C'è un televisore vecchio, ma di chi si vecchi. Ma di chi su con la carcassa in legno, pensa a tu. Luca. Ha mai idea di cosa fa? È tonto. Luca Flippero. Focacci. Luca Gufo. Luca Focaccina. Luca Valtimannu. Ah, visto qualche boccia, calcio boccia la mazzassa. Se mai è grasso, Allora, mi faccio il travaglio a Dunno, il mio assorso. Allora, telefono un attimo. Su. Luca. Ui. Attento, bello me! Attento, cuffo! Piwi! Ma sei tanto lento, sei! Catta, tutta in sola, io catta! Ma insomma... Stavo guardando il film, i ragazzi palle in Francia, bello. Davvero? Io stavo guardando un altro film di un ragazzo che aveva un cane Lessi. E lo prendevano intanto una famiglia a benestare e lui fuggiva e si andava di nuovo dal padrone. Questo è degli anni, sì, sono stati degli anni 60, una cosa così. Dei ragazzi, delle bande dei ragazzi di noi. E c'era questo che con il balaglio ha fatto entrare a giocare nel fuoco ed erano tutti soldati e quindi non era uno in legge perché nella guerra c'erano tutti da 3 o 4 mesi in un mio si è appiccicato la preoccupo tutto ed è morto. E funerale fatto gli erano. Una scuola grandissima per ragazzi e quello che le aveva finito il terreno a entrare a giocare. Faceva lo scultore, gli aveva fatto una statua in bronzo, però che era ancora vivo. Perché aveva l'intenzione un domani di fare una scuola. Un giornalista, e allora l'ha preso il giornalista, guardate. E a nome di quello là hanno fatto la scuola. E chi è? Va bene, chi è che vuole entrare con la gara? Aspetta, stava parlando, avanti. Eia, sei mezzo a rumori, ma tu avanti. E beh, vieni a batte per entrare. Adesso non ti riscendo. Non mi sento più giammato. Ah, io non sento niente. Non sento niente. Credo sentivo nemmeno a Bacchisio stasera, boh. Non lo sentivo, nulla, nulla. Ogni tanto però faccio vaga. E sembrava, e aumentava anche il segnale. Poi si abbassava. Boh, a me mi sembra che c'abbia qualche cosa con l'antenna. O era parecchio l'antenna. No, ma c'era qualcuno che voleva entrare, non so se ci sono tre passati. È sparito. Boh. Si va a mettere su con l'antenna. Deve mettere più su che è possibile. Se no fai così come ti ho detto io, presa il combotto picco e fai su balazzo, da voi basta, dai si abbassi. Abboni il balazzo e fa la luce dal balazzo. Oppure la fate lì sopra il subbalazzo asso che fa a fianco. E non ha più problema per nessuna parte. E la fate barata, carra. Basta per il mamma, la posso mettere un'antenna. Si è attaccata a essere. Non sono tutti chi dice di piazza, no? Non sono tutti, è un dragacciappi, manca a fare danni, capito? E a fine giorno chi si mette sole. Come? Da su magari sì. Se mette la piombo un bacchino, se no siamo così certe volte magari. Viene male, gatto, a parlare con magari con uno, due, e uno magari che non si sente. Sembra così, ma non va bene, capito? Fastidioso, è anche fastidioso quando invece si porta presso il QRM, non si prende, non si comprende cosa si dicendo. È fastidioso. Infatti, ma chissà che non riesce più a fare le cose più bene, là. Speriamo bene, almeno facciamo qualche chiacchiera qualche sera e così via. C'era Luca del Monte e c'era anche Luca Gufo e Parigi sono tutti e due. Allo? Ehi, allo, vuoi parlare francese? Sì. Buonasera a tutti e due. Messer Bocci, qualala. Lì e la, sono figato. Attento, Luca Montanaro. Non lo senti in francese? Domani non sei stato in Francia. Oh, in Francia. Passato mi sono occupato. Ebbe qualche poco, sì. E te so buonomina la frase, tu appena hai sessio, papà guarda male che ti ha colto, break. E ti rispondevano, oui, merci. Non me la metto più. Magari quando si faceva anche di ex, qualche cosetta della superata, ma non me ne metto più, boh. Bacchia, non sei stato male. A te, tuo gufo! Amitosi! Erobesi! Alghero! Alghero, ma chi Alghero? No, Patamona! Bianchino Pantamola. Ehi! Bacchizio! Stiamo a sapere se mi stai ascoltando. Che bagno! Se non sei, almeno se non ci che mi hanno colpato tutti gli altri stessi, quindi la salata l'hai. Ehi, l'antenna questa qui che è vicino al palazzo, invece l'altra che ho, che quando trasmetto da sopra, è più lontana, è sotto la mantova, capio? E Gian Maria che con quella là mi ascolta, con questa no. A te no, ma chi? Questo va scusando la età. No. Wow, abbassami le voci che sennò io vengo lì e ne butto giù tutto. Se sei discusso al 100%, mio hermano, discusso al 100%, tu sei in Radio 5, ok, mio hermano? Che bien, muy bien. Figaro che non riesce a superare. Attento, Figaro, vamos a ver se lo escuchan. Vengi si fare da Graziano di Fucchi, in spagnolo, diglio Graziano. E allora, non ha di Graziano, va, di fa, l'africano, lo spagnolo, non è Giulia, via. Prima si chiama la qualità, e pure già se da un mese tanti indizi, i la 23. Luca! Beh, dimmi grazie! Torna molto senza sentirti! Sì, anche io! Ma le casche parole, attento mio hermano, vamos a vedere! Sì, abbiamo la felice più, spagnoli! Quello è di chi abbiamo la disastrato! A me che mi inizi, la vita proprio perfetta, te la ricordi quando la facevo parlare? Era questa tipa, come si chiamava, aspetta, che era nella gotta di Antonio, accidente, che ci risiedo, con chi su fare da bambè, ori ori ci avviano attaccati, fuori dentro. Oh, Gio Maria, arrivi un po' male qua, Ma per forza ho un gommino. Ecco il gommino, usa. Arrivo come frusciato, vero, come dal QRM, lo sento, Perché stavo sempre col gommino, e poi è dietro, non è davanti. Allora, mi sentivi sempre bene, adesso non mi senti. Esatto, perché sono piccolo e nero, capito? Ehi, non mi scusi, mi sa di lingue, adesso sa anche il cinese. Thailandese, l'egiziano lo sa per facile. Bravo, sta sempre studiando e lavorando. Ascolta Gio Maria, mi ascolti? Ma sai cos'è, Gufo? A Gio Maria l'ho sempre sentito anche col gommino, boh, mi sembra strano. Arriva Luca! Bene, allora arriva Gio Maria, boh. La tenna tratta bene, per forza. La mia sì, per forza. Il pappagallo l'ho stretta. Gio Maria, la antenna, il gommino, tratta bene. Ma io sempre qua, non la toccata mai. C'ho un anno che non la tocco, sai, con gommino, cazzo. E chi la tocca? Ma sono uscito sempre bene, boh. È strano che mi senta male adesso. No, Gio Maria, adesso ti ho sentito bene, dai. Adesso è arrivato fortissimo. E perché mi sono bevuto un bicchiere d'acqua vite, un bicchierino d'acqua vite. Oh Luca, a te è arrivato bene, a me ti... Cos'è fatti? Non ho capito. Senti, poco fa l'ascoltavo bene, Gio Maria. Per forza, perché magari non lo sento, io non lo sento. E tu dai, stai dando colpi per te, dai, come va? Sto usando il coso, il vocaphone. Il Vox sto usando e lo devo mantenere in mano siccome questo non è il mio. Ma Luca Gufo che fine ha fatto lui? Microfono. Ah, ecco. Perché adesso, vabbè, sta arrivando Graziano, il più forte, vabbè, sono qua in cucina anche. Ma in cucina, in camera da letto. E vabbè. Sai che a fine ha fatto chi su. Chi su gasticato due lati d'ozzi? Poi prendere il malettore. Giagnoli. Poi prendere il malettore, grazie. Per carità. Non l'ho sentito. Stanno su te. Cosa mai di sotto te? Stanno su te. E si bavettaggi. E io tu. Che si mangiare, per carità. Mangiare da riuti però. Ma hai visto la fotografia come te lui? Cazzo, quello che ha pisciato logo in cabue. Abbraccia a besi, Maria. C'è la sette di romannata all'aria. Già li ho viste, si è fatto la foto anche con Rosi. E allora? E Rosi se la baita se ne arrivi. Ma non è che ti hai fumato un cannone a rimani, no? Là, l'ho visto un po' di fumante, un po' di martini, un vinellino bianco, un vinellino rosso. Ah, intendi Gio Maria, intendi, era vuol dire che era mezzo gusto lui. Ma penso già, hai lavorato hai ridotto con Rosi? Figlia surrata, dai, cosa per il tutto. Oi, spaghetti coccoi. Ehi, vediamo se Figaro mi ascolta adesso. Figaro! Domani non lo senti la palestra. Ma hanno finito la fatti? Sì, mentre quel Remi ti sta ascoltandomi, tutto un ciu, sì, la mi ascolti adesso. Non lo sento, grazie, da, non lo sento. Mi sento in mezzo a quel Remi? Mi sento in mezzo a quel Remi. Certo. Quella zona sua è balorda, dai. C'è quell'impedimento qua al palazzo e non passa qua, è forse per quello. È strano però Gio Maria che non ti arrivi, e sei da due bassi, gatto, due bassi. Basta casa, bassi. Aspetta che... Cosa hai detto lui? Una prova adesso, mi prendo un po' di freddo o vi faccio sentire qualcosa, aspetta un attimino. Gio Maria, aspetta che ti prendo un po' di freddo e ti fa sentire qualcosa. Capati. Strano, cavolo. Forse vabbè, dietro i palazzi lui. Queste frequenze sono maledette, basta un ostacolo si è fuggito. C'è quel palazzo alto, cazzo, lo impedisce, capito? E da parte mia non va, magari va dall'altra parte che è libero, dalla parte glaziale, a parte del Tore, va bene. Ma da me non passa perché c'è quel palazzo alto, capito? Ma pensai che siete più vicino tu con lui che io? Vicino sì. Se c'è l'impedimento, vieni su palazzo, lo passo malissimo, capito? E Luca ce l'ha, lo stesso il palazzo, a quando arrivi da fastidio. Eppure lo senti. Ascolta, c'è qualche come si dice, qualcosa che ti fa passare, mi non so, qualche buco che riesco a passare. Ma che è di sotto, su in camera, mi dentro il letto, sotto le coperte, e vi ascolto benissimo. Anche io l'ho provato l'altro giorno e funziona bene, va bene a te, a Battista, a Gio Maria e a te, a Gigi, a Luca. Oggi ho sentito anche a Marco, quello che va a salutare Luca. Luca, che vieni in salone. Attenzione Gio Maria. Bacchi, avanti, buonasera. Meno male che ti sento, gatta. Buonasera, ti ho detto che mi sentivi. L'antenna è questa. Questa antenna è sotto la mantova. Cioè, hai visto dove è la mantova? È sotto la mantova. Quella è spostata di 3 metri sulla destra. E ci fa ombra il palazzo. Ed è l'antenna che è quella che sto usando adesso, è quella che ho comprato. L'altra che sto usando giù, quella è l'antenna che ha costruito Luca. Capito? Fa, ma adesso ci sento bene, Bacchi. Adesso va bene, cazzo. Ma giuro, assolutamente. Adesso passi tranquillo e pacifico, Bacchi. Certo, adesso sei salito su, hai preso un po' di freddo, ieri sei malata, ancora con l'influenza. Ancora con l'influenza, però riuscito a ratti, tu mi. Ancora con l'influenza, infatti mi sento a fare a giosso, capito? Adesso ci porto giù questo apparato a vedere se questo migliora. Chiedi. Ma se ti sento adesso vuol dire che va bene l'antenna, con l'antenna di Bacchi. Per cui, anzi, stavamo pensando, te bisogna dire se gli fa piazzare l'antenna in quel palazzo alto a Bacchi, almeno sentono tutti. Oi, a sapere di Gianmarì, se vogliamo la guerra, allora sì, ma meglio stare tranquilli. E allora va bene così, Bacchi. Va bene così, Bacchi, non ti preoccupare allora. Lasciamo perdere tutto. Vediamo Graziano, facciamo un passaggio con Graziano. Avanti, Graziano. A me arrivi bene, arrivi. E scusa, è quella che c'ha, che usi da giù, non la puoi mettere dove c'è quella? Avanti da tratti Graziano. Quella. La posso mettere sotto a quella lì. Infatti voglio fare quel lavoro. Allungare un po' di capo, mettere un barilotto e portare sotto quel palo lì. Se da lì esci con quella dovresti uscire anche con quell'altra mettendola lì anche se sotto. Oh, il posto già ce n'è, a voglia ce ne posso sotto lì. La metto sotto a questa che sto usando adesso e via. E tanto il campo libero quello lì. No, la cosa non si sentirà mai, Don Mario. Se la porti lì. Una giornata bella e sei a posto e puoi migliorare da giù e da su al periodo buono. Sì, dai, che me ne vado giù, mi porto giù questo apparato adesso, adesso voglio provare questo apparato giù. Vai giù. Io l'ascoltavo benissimo, non c'è problema. Diciamo che la posizione dove sono io vi ascolto tutti bene, dai. Poi siamo tutti portati lì, non va bene. Sì, dai, scendiamo da sotto. Un attimino di spostamento. Ehi, avanti, Giovanni. No, infatti io pure lo sentivo bene. E lo sento bene così, ma prima no, assolutamente. E a pensare che io sono dall'altro dietro, la parte dietro, E l'antennino è piattato sulla mensola che c'ho qua, un pezzo di filo, certo. Così era bella meglio, certo, mi sentono tutti, infatti è tutto strano che anche tu mi sentivi un po' male, e prima ti sentivo benissimo io, se ti sento sempre bene. Lo so, vabbè, dai. Interessante, passi due chiacchiere poi. Io già qua non ne ho bisogno di antenna. Certo, ti aiuta molto, magari verso, cioè magari nei posti più lontani, tipo per parlare con Marino, che è lì a Ottawa. Avanti, grazie. Vabbè. E poi. Ma dobbiamo usare anche la 27, no, fino alla parte di Milita per radio. E io adesso appena mi procuro un baracchino decente faccio tutto il lavoro che devo fare. E se no è inutile che abbiamo anche i baracchini. Magari un'antenna al baracchino prendi, senti a tutti, vicini e lontani. Vuole operare un istante, vicino. Non lo so. Avanti, Giovanni. Ma chi? No, Graziano. Aiù. Lo sai perché? Ma è parito, Guardare anche la 27, sì. E ma ve ne sempre di niente, no? Dai, Ho capito, grazie. Avvicinata la bocca alla radio, grazie. Bravo volontano, ho detto che fra poco non c'è più nessuno, che era il BMR, che era il 27, che era il 20, che era il 10, che era il 40, tutti. Se si chiama Sergi Sepiroghi, cazzo, perché ha sentito la 27, Sepiroghi si da là. Mi ha sentito la 27, cazzo, e se no si di coppo. Ma poi c'è la 20 della nessuno e si andata, di no. Ebbene, noi siamo sempre tutti a me, io cazzo la 27, magari. Non c'è nessuno, ma la CMR non è a stare, non ha sentito. Così che si stufa la gente. Allora mi sa, Franco mi viene, ha fatto l'entrata di riunioni e lei fa più dati. Chi è Franco? Antonello, la via. Che è stato romato? Pari. A Antonello, chi è Antonello Pomponio? Oh, Antonello quel ragazzo che abita a Uzi, cosa gli avevo venduto a quello? Avevo regalato pure cosa io che stava organizzando a mettersi l'antenna grande eccetera eccetera, entrava un periodo ed è sparito del tutto. Ma che barracuda? Barracuda, non si chiama Pantone. Anche quello è sparito. Ma mi sembra che era sempre fuori lavorando, visto che quando rientrava dopo non aveva voglia di niente, forse anche per quello, parecchi sono ritirati, dai. Sono ritirati parecchi, ma io ce l'ho sempre acceso. Ogni tanto do qualche compito importante per se ci affaccia qualcuno e invece no, non risponde nessuno, però quando accendo il PMR accendo la 27, sono sempre accesi qua. Hai capito Luca? È Luca Gufo, morto. Luca! Sì, sarà morto. Accendo Gian Maria. Avanti, chi è che chiama Gian Maria? Io forse di Sassari, buonasera. Prova a chiamarla, ma chi sono sì, se ti sente. Sì, adesso proviamo. Gian Maria, no, non è questione di apparato, è questione di antenna. Grazie, come mi ascolti tu? Oh, un bel più basso, sopra è più vivo, più forte. A me è uguale, non ha cambiato niente, forte da prima e forte adesso. Prova a parlare. Grazie, adesso sto usando il veicolare. La modulazione gliela sento più bassa. È diversa antenna però, da sopra a sotto cambia antenna. Qua da sopra, come tonalità di voce, è più forte, più squillante. Qua invece è più non è squillante, squillante. E vuol dire che le antenne è un comodo visto che sopra. E lì c'è quella di Luca. Bisogna mettere le mani in tasca e comprare un'altra. Forse mi compri. Luca, è tu quella che mi ha trovato io, Sanzano? Quella che mi aveva fatto Luca. Sì, quella che aveva fatto Luca, però è stata riparata perché quello che ha fatto Luca, il piede si era staccato, no? Non era saldato bene il piede. E il vento, balla che ti balla, aveva tolto il piede. E l'ho risaldato, però mi sembra che le cose non vadano bene. Signori, là, io chiedo che sta venendo gente, per cui ne approfitto là. Ciao Luca, ciao Bacchisio e ciao Graziano. Buon procedimento, a domani se coincide si lasci sentire. Chiudo, vai grazie. Ciao, buon procedimento, a domani. Vai Luca. Ciao Giovanni, a domani se Dio vuole. Ciao, buonanotte. Sì, ciao Giovanni, tanto non mi sente, lo saluto lo stesso, con la buonasera domani. Capito, Grazia, le cose cambiano. Ehi, ma io stavo chiedendo a Luca come me l'ha fatta a me, Luca Gusto, un'antenna, e l'ho fatta a Luca. Ho chiesto a Luca se sta usando quella l'antenna, quella stai usando lui. No, il gommino. Quale? Il gommino dell'apparato, non sto usando l'antenna esterna. Ah, è quella che ti ho fatto io, non la sto usando, quella che mi aveva fatto Luca. Quella la puoi usare anche dentro. No, quella vuole... appena c'ho il campo la metto sull'antenna della TV qua, la provo. Io ce l'ho fatta perché tanto per l'esterna me l'ho comprato. Poi quella era praticamente, era come che è stato sul gommino, perché io l'ho messa anche esterna, poi dopo c'è l'antenna della TV sopra il tubo di lì l'avevo messa. E praticamente la figlia e la non figlia, come col gommino. E ce l'ho fatta a te. Domani ci metto la Grand Prix che ho costruito io, che ne ho tolta, ce la torno a piazzare, voglio provare con la Grand Prix cosa succede. Scoppiata cosa ha detto Bacchisio. Ha detto che piazza l'altra antenna domani. Sì, io l'ascolto bene a Bacchisio. Ma la Grand Prix, il CMR è bene. Buono, non so se è la Grand Prix per, quelle, per queste frequenze. Cosa hai detto Bacchi? Hai capito lui? Cosa hai detto? Stavi parlando prima? Sto uscendo perché? Sì, ma ti sentivo sotto Graziano. Il microfono allora non passo bene. Ho detto, è stata costruita sotto la direzione di Luca, Luca mi ha dato le misure, capito? Ah, ecco, la prova domani, vedi un po'. L'avevo provato l'altra volta, usciva bene, solo la paura è se piena di stazionari e fa il fumo. Si può curare nero, non chi so, ma il tuo baratto arrivo dappertutto, ma anche a Portatore se arrivo, perché il palazzo è alto. E quale, quello di Luca? No, dove sono io. Ah, a quale piano sei perché? Terzo. No, sei libero, voglia, superi, quelle villette le superi. Sì, ma c'è il terzo, poi c'è il quarto piano e poi c'è il terrazzo su, è alto il palazzo. E lo puoi piazzare in cima allora l'antenna? Volendo sì. Allora sì, che va bene. Allora sì, sei libero. Allora superi anche a Graziano. Sì, sì, ma sono molto più alto di Graziano io. Sei molto più alto di Graziano, cioè, se l'antenna la metti in cima dove è la tromba delle scale e dell'ascensore, a voglia. Cavolo, non si può mettere lì, cioè, oddio, non è che si possa mettere, non bisogna chiedere, se ti fanno salire. Bisogna vedere un po' chi è il padrone di lì, l'inquilino che c'è lì, se è di buona volontà. Allora sono dei ragazzi giovani. Guarda che attacchi dove attaccano le antenne, al vano dell'ascensore e non si dice nulla. Ragazzi di ridiscosa, perché non c'è antenna centralizzata? No, è a lui. Tu se sei all'ultimo piano, penso che ci sia la postola come qua. Sali con la scala, apri la postola, ti abbassi la scala e sali sul terrazzo. Tanto per saltare nel terrazzo ci vuole sempre la scala. Sali, guardi. Ma chi più? Già lo so, no, ma c'è altro come palazzo a voglia. Tu pensa uno che la mette nel grattacielo allora? Esce bene secondo te. Infatti la voglia pure il capo dal grattacielo mi balzato da qua e la tiene 3 minuti. Aspetta, uno che chiamava, chi è che chiamava Bacchisio? Ciao Bacchi, Giulio da questa parte, ciao, con chi sei? Okay, ciao Giulio, buonasera. Luca e Graziano. Luca del Monte e Graziano. Avanti giù. Ah, ok. Ciao Graziano, ciao Luca del Monte, Sabatoni. Mi senti? Ciao giù, e a voglia, benissimo. Sì, anch'io ti sento bene, non ci sono problemi. Doppiato me ha. Grazie, sì, già ti sento, ma stai uscendo gracchiante. Giulio, mi ascolti? Sì, ti ascolto, non mi senti, Tom? Sì, arrivi fortissimo. Ok. Arrivate tutti. Sono Graziano, un pochino di QRM, ma già lo sento lo stesso. Sì, ma chi so bene lo ascolti, oh Giulio. A bomba, Marchisio meglio di tutti, a bomba. Oh, vedi, adesso ho lui. Spiegami una cosa tua, da Giulio che è più lontano arrivo a bomba. Gian Maria che è molto più vicino non mi ascolta, a Graziano arrivo bene, da te arrivo bene. Chi è che c'ha il malanno? Ma a me non mi dico queste cose, non è che ne capisca molto, Ma sicuramente c'era qualche ostacolo che ti ferma, ti fa arrivare a Gio Maria. Da me, ripeto, arrivi se mi sposto in soggiorno, se mi sposto lì, vicino al bagno, in cucina, nella tua cameretta, ti ascolto benissimo. Sì, ma Gio Maria, col gommino in cortile, col gommino non puoi pretendere di ascoltare a tutti. Dice tu arrivi, Graziano arriva. Forse la posizione è più migliore. Avanti e giù. Certo, col gommino anche come ti muovi ci può essere qualche interferenza, può succedere. Bisogna vedere la posizione dove si trova quello col gommino, è ovvio. Io ad esempio col gommino sono fortunato perché qua ho campo libero, per cui va bene, addirittura dentro casa, Luca, da dentro casa io modulo col gommino e sento dappertutto e mi sentono tutti. Beh, anche io sono con il gommino, però avendo un'altezza più, cioè sono abbastanza più alto di Graziano, La zona è campo libero. Io non è che sono molto in alto, io sono altezza normalissima, al primo piano, per cui va bene lo stesso. E tu pensa che l'estate scorsa ho collegato addirittura la Corsica, e non sono balle perché te lo può raccontare l'amico che è andato in Corsica per lavoro, per cui ti puoi immaginare. Beh, sicuramente sei positivo per quella zona. L'unico che non sento bene a secondo delle giornate è Marino. Gli altri li ascolto tutti benissimo, vabbè, sono qua in zona. Arriva bene anche Claudio, Marco Condo, Pomponio. Insomma, tutti bene, dai. Li ascolto tutti bene. Sì, io lo stesso, io sento tutti bene, per cui Marino poi non ne parliamo. Marino è come se fosse lì seduto vicino a me quando muova. Lo sento fortissimo, sia col baracchino che con il PMR, per cui vabbè, siamo vicini, da ottava qui a dove sono io è linea d'aria, è il campo libero, per cui va bene così. Però da casa non sento nessuno. Forse sento mia, Marcolino, a Claudio, ma a voi no, né a Graziano, mia Gio Maria arriva a casa, Gio Maria, però vabbè, col gommino cosa vuoi fare, non puoi fare nulla. Purtroppo questa frequenza è così, ci sono magari ostacoli che non riesci, nemmeno se hai qualche watt in più non ce la fai. Mentre invece bastano pochi milliwatt per avere il campo libero e riesci a farti sentire e anche ad ascoltare. È così, questa frequenza è così purtroppo, Luca. Lo so, avanti Bacchi. Sì, vedi, adesso sto andando col gommino. Come mi ascolti col gommino, Luca? Ah, io benissimo, non so gli altri, avanti Giulio. Non c'è nessuna differenza, arrivi fortissimo qua, anche con gommino o Bacchi. Va benissimo, ripeto, poi non ne parliamo, l'altro giorno ci ho sentito quando eri lì a Santo Dettaro, in campagna, e arrivavi a bomba, veramente a bomba. Sto usando il questo qui, in campagna c'avevo questo qui, mi porto questo perché è più leggero, capito? Mi porto questo qui, ce l'ho in tasca. Avanti, Graziano è caduto. Vabbè, Graziano, questo la deve fare deve curarsi, per cui si sarà allontanato per quel motivo. No, ripeto, con Gommino l'unico problema è che con Gommino, siccome la persona si muove, anche spostare, io se da qui, da dove sono adesso, se mi sposto anche di un solo metro, che non è niente, quello che sia, un metro solamente, e non magari sento male e mi sento anche male, mentre invece seduto qua al centro del letto esce che è una meraviglia. Basta spostarmi di un metro, anche sempre seduto sul letto, boh, finisce la pacchia. Avanti. Sì, Graziano, ci sei. Graziano. Vabbè, dai, vuol dire che per la zona di Giulio sei positivo, dai, Bacchi. E Giulio è anche a capo aperto. Anche capo. Domani voglio fare la prova, spostarla con l'antenna. La voglio spostare sotto la manta, ma dove quella che ho provato stasera, da su. Provare quella lì, a vedere un po' se migliora o peggiora la situazione, ma penso sia a difetto dell'antenna. Però l'ho notato anche, l'altra volta ho agganciato la manto, va a casa e riceve. Sì, riceve, ma trasmetti, non trasmette niente perché sei a fumo. No, Eppure tanto tempo fa avevo provato Antonello un pugno, così, solo per fare qualche prova, e trasmetteva anche, oltre a ricevere trasmetteva anche. Addirittura andava anche in trasmissione, ma passaggi piccolini però. Sì, ha fatto qualche prova, è ovvio, no? Non è che ti puoi fidare più di tanto. Però i finali partono, riscaldano subito. Avanti lui. Sì, ma meglio rischiare, perché quella lì non è un'antenna per queste frequenze. Ma arriva su riscalda, invece i finali, e se la devi lampare a buio. Beh certo, se tu insisti è chiaro che questo lo fai fumare, è ovvio, no? Con quell'antenna non puoi permetterti di fare tanti passaggi, no? Uno, due, tanto per provare, però ripeto, uscire esce lo stesso, almeno dalla testa dove si trova Antonello. Ah, vabbè, perché quella è tarata per la 27, no? Per queste frequenze qua. No, io l'ho agganciata così, la prova, va. Già riceve comunque. Se vuoi ascoltare, agganci la manto, vai via. Ragazzi, vi saluto. Ce la risentiamo domani. Ciao Luca, ciao Battista, ciao Gianmaria. E ciao Giulio, anche che l'ha ascolto. Rilancia a te, Luca. E ciao, grazie, buonanotte. Ci sentiamo domani. Avanti Giulio. Ok, ciao Grazia, ci sentiamo, dai, saluti in casa, alle prossime. Sì, Luca, io mi ricordo che con la Mantova ascoltavo la radio Galena tranquillamente, senza bisogno di mettere nemmeno il filo di terra. Tu sai, la radio Galena che non è alimentata né a batteria né a corrente elettrica, eppure sentivo benissimo, mettevo l'antenna del baracchino per ascoltare e sentivo Rai 1, sentivo tre stazioni, sentivo con quella radio Galena che avevo costruito, senza addirittura mettere la massa a terra, perché devi mettere la massa a terra per la radio Galena, mentre invece con quell'antenna andava benissimo. Sicuramente l'avevi tirata giusta. Ma comunque contavo la posizione utile. Se uno ha l'altezza, no? Tipo grattacielo, ti faccio un esempio, e mette un antennino piccolissimo, arriva dappertutto, non c'è bisogno di queste grandi antenne. Certo, è sempre una questione della posizione, se uno a campo libero arriva in capo al mondo, e caspita, a Sentino arrivo benissimo ad esempio col PMR, in mare lì si trovava l'amico in barca, si trovava due amici che parlavano con noi, adesso non stanno più parlando, erano in gita in barca vicino a Castelsardo, mi sentivo benissimo, poi erano vicino ad Asinara un altro giorno, mi sentivo benissimo, per cui va bene, altro che... quando c'è campo libero è importantissimo, va bene, non era nel mare, dunque faceva da specchio anche l'acqua, no? Certo, vabbè, l'antenna non conta comunque, se non hai, diciamo, altezza, opposizione, così ci vuole l'antenna che abbia il suo guadagno, sia in ricezione che in trasmissione. Avanti, avanti i bacchi. Riprendo per salutarvi e passare quelle dita, che io sono arrivato a quelle, a quella malattia, sono arrivata. Bene, Luca, ciao, salutissimi, buonasera. Adesso ti sei spostato, ma chi? Adesso mi sei arrivato male, adesso ti sei spostato però. Col gommino, ripeto, devi trovare sempre la posizione più idonea, perché basta spostarsi un pochino e sei fregato. Però non era come prima, prima eri fortissimo, sentivo, a livello del QRM. Buona cena allora, buon tutto, alle prossime, avanti Giulio, ripeti che io non ti ho sentito sotto, non ho capito niente. Sì, perché stavo modulando forse Bacchisio, a me magari non mi ha sentito. Ho detto che Bacchisio si è spostato, evidentemente col gommino è quello il discorso che stavamo facendo, se ti sposti anche di poco magari non hai più quella direzionalità della radiofrequenza, per cui non puoi né ascoltare e né sentire, farti sentire bene. Comunque ho capito che il Bacchisio sta chiudendo. Ciao Bacchi, salutoni, buona cena, le prossime. Capito Luca? Sì, sì, sì. Mi avvio tra un po' lo stesso che adesso non male, guarda. Adesso tra un po' me ne salgo a casa. Mangio qualcosa pure io e me ne salgo a casa. Questa la lascio, sì. Questa la lascio qua la radio, ma da caricare per domani. La riutilizziamo. Beh, ok, beh, vabbè, anch'io adesso chiudo. Sì, no, ripeto, per la zona lì, Limanetta, io arrivo benissimo dappertutto, per cui quello che ho delle volte difficoltà a sentire a Graziano, quando usa magari il gommino, che è secondo come dove si trova, se si trova per dire in una determinata posizione, arriva bene anche col gommino, diversamente non lo sento male. Però in linea di massima la sento tutti. Sì, beh, infatti. Vabbè. Diciamo che è una bella frequenza, pulita, però se c'è un ostacolo si è fregato. Per esempio a Marino ci sono giorni che lo sento qua in questa posizione e ci sono giorni che non lo sento per niente, ce lo sento male. Quello sì, è sempre quello il discorso, è sempre una questione di posizione. Poi l'ideale sarebbe avere tutti l'antenna esterna, quella sarebbe l'ideale. Però chiaramente l'antenna esterna non la possiamo usare, magari c'è qualcuno che la usa e fa bene a usarla, sono problemi sui. Ma ripeto, quando non è necessità non c'è bisogno, come nel mio caso col gommino, ripeto, mi difendo, insomma, ecco. Sì, sì, sì. Ma io pensavo che non ci arrivavo da lì da te. E invece ti ricevo bene, mi ascolti bene, già va bene, dai. Graziano, a differenza mia, è in un fosso, perché io sono verso l'alto, lui tende a scendere, e magari verso la tua zona è un po' coperto. Sì, ma quando usa l'antenna esterna, oppure quando si mette ad esempio in terrazzo, o in cucina, in una determinata zona, come eravamo ieri siamo stati più di un'ora parlando con Graziano, in PMR, ma si trovava in cucina, anzi prima era in terrazzino e poi si è messo in cucina, e non c'erano problemi, arrivava benissimo qua. Ripeto, la questione è sempre si tratta di trovare la posizione migliore. Quando tu senti bene, perfetto, è lì che ti devi fermare. E inoltre, se poi ti giri seduto nella sedia, anche girandoti così, ecco che può cambiare la radiofrequenza. Sì. Vabbè. Accontentiamoci giù, cosa dobbiamo fare? Ah beh certo, se di più non si può pretendere, questo è il resto, la parecchia per quello che non è come la 27, è un discorso, però diciamo che per la potenza che hanno questi apparecchietti e soprattutto anche per la presenza, perché sono giocattoli in pratica, ce l'hanno i bambini per giocare arrivano tranquillamente. Ad esempio prendiamo Natalino, non mi arriva qua in questa frequenza. Se passiamo in RPD Natalino mi arriva bene, tanto per dirti, no? Eppure siamo sempre nella stessa zona, nella stessa posizione, sia io che lui. Aspetta, l'LPD, l'LPD è 433, giusto? Sì, infatti, in quella frequenza lì lo sento bene, mentre invece PMR lo sento appena, ma tante volte è più scarso completamente che non capisco quello che dici. Perché magari non ce la fa, non so come funzionano queste frequenze, non ne ho idea, vabbè dai. Io pensavo che riuscivo solo a parlare con questi di qua, tipo Graziano, Gio Maria e gli altri, dai. E vabbè, invece riesco a parlare un po' dappertutto. Certo, come funzionano? Funzionano a visione ottica, a vista d'occhio. Praticamente se vedono l'orizzonte va bene, se vedono l'orizzonte dell'antenna ricevente va bene, e se diversamente non ci sono problemi, ecco qual è il discorso, perché la potenza è quella che è, l'antennino è quello che è, la frequenza è quella che è, non si può pretendere più di tanto. Bravo Luca, dai, ti saluto, ci sentiamo, dai. Ciao, grazie per la chiacchieratina, alle prossime. Ciao Luca. Sì, ciao Giuda, buona cena. Alla prossima, ciao, ciao, ciao. C'è nessuno qua?